le condizioni che generano una riduzione del tempo di transito. A diarrea cronica grave, possono causare una riduzione dell'assorbimento, del cervello, degli idioti, capisci?